Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meli. Se è possibile che sia iniziato in Italia il settimo ciclo edilizio, allora oggi a Milano ha preso il via Mostra Convegno Expo Comfort, che è la fiera delle tecnologie impiantistiche appunto dell'edilizia, e la Tre Giorni milanese si è aperta con la presentazione del secondo rapporto congiunturale e previsionale del mercato degli impianti, curato dal CRESME, che è il centro di ricerche economiche e sociali del mercato edilizio. Il mercato degli impianti tecnologici per l'edilizia ci interessa perché è un indicatore indiretto ma molto forte della qualità energetica, ma non soltanto, delle ristrutturazioni, anche delle nuove costruzioni. E come vedremo ci sono dei segnali di un forte cambiamento in atto. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite, che è il direttore del CRESME, Lorenzo Bellicini. Buonasera Bellicini, bentornato. Buonasera. Allora, partiamo da qualche dato macroeconomico, i principali. Direi che forse il tema principale è che questo settore degli impianti ha retto molto meglio del settore delle costruzioni la crisi, è un protagonista della fase di ripresa. Nel 2015, secondo le nostre stime, in Italia il mercato degli installazioni impianti fa 46 miliardi di euro e ci mette al terzo posto in Europa, davanti al Regno Unito, vicino alla Francia e un po' distante dalla Germania. Però in termini di percentuale sugli investimenti in costruzioni, questo mercato degli impianti in Italia è il più alto d'Europa. Cioè, in proporzione rispetto agli investimenti nel settore del costruito, la quota di impianti addirittura oggi ci vede primi in Europa. Abbiamo superato la Germania. Ecco, come lo leggiamo questo dato? Ma diciamo, lo possiamo leggere da due punti di vista. Innanzitutto il fatto che oggi il 72% del mercato delle costruzioni italiane è fatto di riqualificazione e patrimonio esistente. La seconda giustificazione va trovata nel fatto che anche nelle nuove costruzioni l'energy technology è uno dei motori del ciclo delle costruzioni, vale a dire uno di quegli elementi che ha vissuto meno la crisi, anzi è cresciuto, e chiaramente nell'energy technology gli impianti sono protagonisti. Sono protagonisti. Ecco, in generale volevo capire, per quanto riguarda queste tecnologie, si vede quindi anche, diciamo, una migrazione verso tecnologie più avanzate? Penso nel settore del riscaldamento, più pompe di calore, meno caldaie, che sono una tecnologia più tradizionale. Si vede questo spostamento o è solo che appunto più ristrutturazioni uguale più impianti rispetto, insomma, al mattone? Questo verrebbe da sé, no, a un certo punto. Diciamo in tutte e due le cose, nel senso che anche questo segmento, diciamo, della domotica e dell'innovazione tecnologica, che viene descritto poi nel rapporto, dimostra come è cresciuto negli anni di crisi, cioè tutti gli elementi innovativi, tecnologici, crescono, mentre il resto del settore tradizionale cade. Hanno retto, ecco. Ricordiamo che tutto questo in questi anni ha anche attraversato la bolla del fotovoltaico, quindi il fatto che i fatturati abbiano retto, l'occupazione abbia tenuto, scesa del 10 contro il 40% dell'edilizia, nonostante una bolla che al picco era di 30 miliardi in un anno, è veramente un fatto significativo, no? Sì, diciamo che questo settore ha vissuto appunto con il picco nel 2010 questa fase espansiva del settore fotovoltaico, che è stata eccezionale, e poi del crollo, però i dati appunto ci dicono che questo settore, nonostante questo crollo, ha tenuto, e anzi vorrebbe dire che è cresciuto rispetto al 2008. Infatti, ecco, al punto che voi parlate, questo cambio di passo, diciamo, vi fa parlare di un settimo ciclo edilizio. Che cosa cambia quindi rispetto al precedente, che, a proposito, qual è il sesto? Quando è iniziato, quando è finito? Ma diciamo il sesto è quello che è partito 95-96 ed è finito cominciato a finire nel secondo semestre 2006 e poi è finito in malo modo, insomma, come sappiamo, negli ultimi anni. Sì, è finito secondo noi nel 2014, quindi già nel 2015 dovremmo avere l'inizio lento, leggero, del settimo ciclo edilizio, che dovrebbe poi cominciare a crescere a partire 2016, ma poi soprattutto 2017-2018. Allora, già nel sesto ciclo edilizio gli impianti sono cresciuti. Ricordo che gli addetti agli impianti erano 272.000 nel 91 e nel 2013 ne abbiamo quasi 500.000, 480.000, esatto. E poi il tema è che nello scenario evolutivo di questo settimo ciclo edilizio dobbiamo discutere di riconfigurazione del settore. La riconfigurazione ci porta a dire che il settore delle costruzioni tradizionali dobbiamo leggerlo in un modo diverso. Costruzioni, impianti e servizi diventano una cosa sola, e il motore degli impianti è sicuramente il motore più dinamico. Già il settore degli impianti oggi supera il 34-35% del valore della produzione del settore, ma davanti abbiamo la seconda rivoluzione delle macchine, abbiamo la quarta rivoluzione industriale, abbiamo l'internet delle cose. È evidente che tecnologie e impianti sono i motori del settimo ciclo edilizio. Insomma, verrebbe da dire che ce ne aspettiamo delle belle da qui ai prossimi 15 anni. In questa partita il pubblico che ruolo sta giocando? Fa da traino, aiuta a sviluppare o invece insomma si fa tirare? Beh, diciamo che uno dei dati forse più sorprendenti dello studio che presentiamo è proprio il peso degli impianti all'interno del settore delle opere pubbliche. Qui siamo ormai sopra il 60% del mercato delle opere pubbliche. Questo interessa sia il mondo delle infrastrutture, ma soprattutto il mondo degli edifici. La manutenzione e gestione degli impianti tecnologici, la messa a norma, la messa in efficienza, il miglioramento dei consumi è una delle grandi partite di questi anni. Va bene, grazie allora. Grazie Lorenzo Bellicini. Grazie a voi e a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.